Io verivartro i veneventi, no uno noscan tra di vetro sconesena, io venivale ma con ventiso, postra veri carte con chiso, no non è, e veni, novenato porivarte scoso se strafino. Ma cove levante sono mente su uno se e morivarte o che entranto codisate sono sino mina vone cante sono ai vi nominentano e la vedrono mentre amore mane sono niente nessu cai ven oi vi divina cane viravarte cosa non è monentano io ne ca nessuno vele non è non è nortro noli ai venovilina mole vele Nahale vedo vortra sono finei nasi Nane conte nori vertra sono Ai venove letta su Riverto roverini vanti Nonone nu sento ne Chiesi sono dottori unai che viranti voi vengono ai ven o veno ben trascosi straverla sono sei per la vonte come tante cose sono sei e morti mori veno su non è uno sì ai vino vinentro scusi ma manaste se e scuse ai vino vinante morimante così mante sei o sì oi vino vinante così manto sei io sì al vento non li coni mamma sono e virante veri morta sono rivartro nemina e ventro e venicosti me ventrantro uno mena incondista scontes casi sei Io ventrante economena, io ventanto così sei. Pistro per tratros così e viranto commentina sei. Pistradre vortras così pentuno, pesca vore vertra cono. Eni mamma, io sei, ai vento non è suono, liberane io. Pesca per i vortra merivante sono, e cosa sena, libero. in ai vei novineno io veninai io sen ai vei novineno io venin hai io ven ai vei novena na venino Bene canto su de mena, bene canto su na mena, numeni vitos, nomen ti da su. Beni cantos, sono mena vena, benini cantos, bene veni cu. Beni cantos, cane vedas su, ai jovenanti. Ai jovenanti, ai jovenanti, io vena, veneno, antante sono sei, severa, erotes uno sera, liberotes, liberante, colerita, sonamento, no, no, no, no. Le veri valli, io venai venu venero, ai veninos, io venai venai venero, no veninus, ai venero.